Storie italiane. Molly e il gigante. C'era una volta un contadino con sua moglie e sua figlia. Il contadino era povero e preoccupato di come nutrire la sua famiglia. Una notte... C'è ancora del cibo per domani? No, ma non ti preoccupare. Ci sono alcuni pezzi di zucca che ho tenuto. Farò un bel brodo. Abbiamo una figlia che deve crescere. Lei ha bisogno di cibo. Se andiamo avanti così, la mia povera bambina morirà di fame. Cosa facciamo? Se solo potessi guadagnare qualche soldo in più. Ah! La figlia del contadino, Molly, sentì la conversazione tra i suoi genitori. Voleva davvero aiutare suo padre. Così decise di andare nel cuore della foresta per raccogliere alcune bacche da poter vendere e mangiarne il resto. Quindi, quando i suoi genitori dormivano profondamente, sgattaiolò fuori e andò nella foresta. Camminò per tutto il giorno successivo fino a quando, poco prima del tramonto, vide un bellissimo frutteto pieno di bacche mature e bellissimi frutti di ogni genere. Cielo, questo frutteto è bellissimo! Posso prendere così tanta frutta qui! Posso guadagnare così tanti soldi vendendola! Ma aspetta! Molly notò un'enorme casa vicino al frutteto. La casa era molto, molto più grande di una normale casa umana. Oh, dalle sue dimensioni sembra essere la casa di un gigante. Ma devo prendere la frutta. Molly andò avanti e bussò coraggiosamente alla porta. La moglie del gigante le aprì. Chi è? Qua giù, signora. Oh, cielo! La moglie del gigante era gentile. Accolse Molly. E ascoltò la storia di Molly. Bene, puoi prendere un po' di frutta se vuoi, ma devi andartene in fretta. Grazie, signora. Madre, sembra così affamata. Falla cenare. E se tuo padre tornasse? Lo sai che odia gli umani. Ma mamma, sembra così affamata. Deve avere la mia età e... Va bene. Per favore, mangia questo. Ma finisci velocemente perché a mio marito non piacciono gli umani. Molly prese il cibo con gratitudine, ma proprio quando aveva iniziato a mangiare, il gigante tornò a casa. Sento odore di umano qui. È solo una ragazza, all'età di nostra figlia. Lasciala andare. Sì, padre, per favore. Il gigante pensò immediatamente ad un trucco. Se lo dici tu, amore mio, per favore, sentiti a tuo agio qui. In effetti, è tardi. Dormi qui stanotte. Tornerai a casa domani mattina. La foresta è un posto pericoloso. Puoi dormire nella tua stanza, giusto? Sì, padre. Grazie. Ed ecco un piccolo regalo per te. Mia figlia ne ha una d'oro, ma dal momento che non ne ho un'altra d'oro, per favore indossala. La moglie e la figlia del gigante erano molto felici, ma Molly era troppo intelligente per credere all'improvvisa bontà del gigante. Quindi, quando la figlia del gigante dormiva, Molly si alzò. Mise alcuni cuscini giganti sotto la sua coperta. Quindi indossò la collana d'oro della figlia del gigante e mise quella floreale addosso alla figlia del gigante. Presto arrivò il gigante. Non riuscì a capire quale fosse sua figlia e quale fosse Molly. Quindi annusò e pensò che sua figlia fosse Molly per via della collana floreale. Così la colpì e la scosse forte. Sua figlia si svegliò. Padre! Che cosa? Sei tu? Hai cambiato la collana? Padre, ci hai mentito! Pensavo che saresti stato carino con lei! Quanto sei cattivo! No, no, amore mio! Mentre il gigante era impegnato a fare la pace con la sua figlia arrabbiata, lanciò uno sguardo così terribile a Molly che Molly fuggì nel bosco. Corse veloce, corse lontano, corse tutta la notte, finché, finalmente, arrivò ad un ponte che era stato distrutto. Su un albero pendeva una corda, con una tavola. Molly era ovviamente molto leggera e agile, quindi afferrò la corda e saltò dall'altra parte. Si ritrovò in un regno. Parlando con alcune persone, scoprì presto che il gigante turbava la gente del regno e quindi tenevano il ponte abbassato per tenere lontano il gigante, sapendo che il gigante sarebbe stato troppo pesante per lanciarsi con la corda. Molly chiese di vedere il re. Oh, quindi hai ingannato il gigante? Sì, Vostra Altezza, ma adesso devo tornare a casa. L'unico modo in cui possiamo tenere il gigante permanentemente lontano è se prendiamo la sua spada in cui risiede la sua forza. Altrimenti sarà impossibile attraversare la foresta per raggiungere i tuoi genitori senza che il gigante ci raggiunga in un attimo. Altezza, permettimi di provare. Lo faresti? Farò tutto il necessario per tornare dai miei genitori. Ho avuto la meglio su di lui una volta, lo farò di nuovo. Ti prometto che se prendi la sua spada, tu e i tuoi genitori non saprete mai più cos'è il bisogno o la fame. Grazie, Altezza. Fammi fare una spada finta che assomiglia a quella del gigante. Quindi Molly partì, attese che il sole tramontasse e che le luci si spegnessero nella casa del gigante. E poi si intrufolò nella sua stanza. Rimosse con cura la spada che pendeva sopra il suo letto e la sostituì con quella finta. Quindi gettò la spada fuori dalla finestra ai soldati del re che stavano aspettando là fuori. La spada fece rumore cadendo e il gigante si svegliò, afferrò Molly. Tu pensavi di avere la meglio su di me, vero? Come osi? Beh, una volta ho avuto la meglio su di te, o no? Non questa volta. Ti punirò! Come? Sono sicura che non sai neanche come punirmi. Veramente? Se pensi di essere così intelligente, dimmi, se fossi io al tuo posto, come mi puniresti? Ti porterei in cucina. Ti metterei in un gigantesco sacco con un ago, un filo, un cane, un gatto e un paio di forbici. Poi ti appenderei ad un chiodo e me ne andrei nella foresta a prendere il bastone più robusto e poi porterei il sacco sul bastone e lo trascinerei nella foresta. Ah, quello farebbe male. Punizione perfetta, vedi? Molto bene, vai dentro. Il gigante lasciò il sacco appeso al chiodo e se ne andò a tagliare un bastone di legno. Il cane, il gatto e Molly fecero così tanto rumore nel sacco e saltarono così tanto che pentole e padelle caddero in cucina e la moglie del gigante si svegliò. Andò in cucina e vide il sacco che si contorceva. Chi è questo? Tuo marito ci ha portato qui! E se solo tu potessi vedere la magia che abbiamo! Ma tuo marito non voleva che la vedessi! Cosa puoi vedere? Per favore, dimmi quale magia puoi vedere! Ti prego, dimmelo! Per questo dovrai venire qui! Certo che lo farò! La moglie del gigante era così curiosa che avrebbe fatto qualsiasi cosa per vedere la magia che la creatura stava vedendo. Quindi Molly prese le forbici e tagliò il sacco. La moglie del gigante entrò e Molly rapidamente usò l'ago e il filo e lo ricucì, lasciando un piccolo foro. Signora, sei stata gentile con me una volta, ma tuo marito è cattivo. Ama disturbare gli umani. Guarda tu stessa cosa ha fatto a me. E Molly scappò. Il gigante tornò a casa, mise il sacco sul bastone e cercò di trascinarlo. Attraverso il buco nel sacco, la moglie del gigante vide tutto. Ah, tu umana? Ti mostrerò come avere la meglio su di me. Odio gli umani. E prima che mia moglie si svegli, ti porterò via e ti farò soffrire. La moglie del gigante tagliò il sacco con le forbici e si alzò. Il gigante sentì che qualcosa non andava mentre cercava di trascinare il sacco. Si voltò e vide sua moglie lì, molto arrabbiata. Tu ci hai promesso che non avresti più fatto del male a nessuno! Ma ha provato a prendere la mia spada! In modo che tu non possa mai più ferire un essere umano! Te lo meriti! Getterò via la tua spada io stessa! Cara, stavo solo scherzando! La moglie del gigante gettò via la spada. Ma ovviamente non sapevano che Molly aveva già preso quella vera. Il re fu così contento che fece in modo che i genitori di Molly venissero nel loro regno e offrì loro un enorme campo da coltivare. Molly e i suoi genitori non ebbero mai più fame. Molly era audace, sempre vigile e intelligente. Non ha ceduto nemmeno quando un gigante l'ha minacciata. Quindi finalmente le sono arrivate cose belle.